sto baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. In 30 anni di servizio mai il comandante Filippo Renato Sorci si era trovato in una situazione così difficile. La sua nave, il traghetto Fantastic delle grandi navi veloci, è arrivato all'ingresso del porto di Genova con venti di 100 km orari e onde di 6-7 metri che la colpivano al traverso e l'hanno fatta sbandare pericolosamente su un fianco. A bordo, panico, feriti e molti danni. Dagli studi di Radio 24, un saluto da Bruno Perini, in regia con noi anche stamane Filippo Aureggi. È il secolo XIX giornale di Genova, giornale della Liguria, principale giornale della Liguria, che ci descrive nel dettaglio quella che poteva essere una tragedia, cioè mare e vento devastano la Liguria e colpiscono anche la nave grandi, navi veloci. Ecco, e come vi dicevo, il secolo XIX ci dà delle descrizioni. In 30 anni mai visto una tempesta così, il comandante della Fantastica obbligato a entrare in porto nonostante tanti divieto. 30 feriti sul traghetto, ho tentato di mettere la prua al vento per allontanarmi dalla costa ma non ci sono riuscito. Intanto continuavano ad arrivare sul ponte di comando avvisi di feriti a bordo. Che cosa potevo fare? Dovevo entrare in porto, non c'era altro da fare. E qui è il racconto del comandante della grandi navi veloci Filippo Renato Sorci. Voglio dirvi che potremmo tornare, voi ascoltatori potrete risentire cosa è accaduto, come dire, come è stato il crescendo di questa maltempo che ha devastato la Liguria, anche direttamente dalle parole di Lanfranco Vaccari, direttore del secolo XIX, perché Vaccari sarà proprio stamane ospite a Dietro la Notizia alle 8.30, la trasmissione condotta dal nostro direttore Gianfranco Fabi. Quindi potete sentire da lui di questo e probabilmente di altro, perché Lanfranco Vaccari parlerà anche dei grandi temi di attualità del giorno, ed è infatti uno di questi, è lo stesso secolo XIX a dare il titolo principale, a parte come dire, la cronaca della tempesta di vento e mare. Scuola ad alta tensione, Maroni denuncia per chi occupa il sindacato, 1 milione in piazza. Tutti i giornali anche oggi danno titoli diversi tra di loro, li possiamo vedere, andiamo a vedere La Repubblica, 1 milione contro la Gelmini, scuola in piazza, grande corteo a Roma, Maroni denuncia per chi occupa. E La Stampa, scuola sfida al governo, alcuni titoli sono identici, Il Messaggero, la scuola va in piazza, sfida alla riforma, e ancora Il Corriere della Sera, scuola in piazza, Maroni non occupate. E poi ci sono i giornali di sinistra, quelli dichiaratamente di sinistra, l'Unità, l'Onda dappertutto, eravamo in tanti, e il Manifesto che titola Aula Magna, con una enorme fotografia che riprende la manifestazione di Roma, ma abbiamo anche impostazioni diverse, per esempio Libero che indica chi occupa paga, il ministro dell'interno avverte farò rispettare la legge anche a manifestanti e scioperanti, Silvio sfotte Veltroni, fa il referendum sul grembiulino. E ancora Il Giornale che invece titola va avanti nella sua campagna contro i baroni, dice i baroni barano sullo sciopero, non lavorano ma prendono i soldi, il trucco dei docenti universitari, sospendere le lezioni così sono assenti però a stipendio pieno, la sinistra ruba la piazza gli studenti, Berlusconi, scandalosi, Maroni, denunceremo chi occupa. Ecco questi, ecco, e Il Giornale, ci torneremo, mette bene in evidenza che per una volta il contestatore viene contestato. E chi è il contestatore? Beppe Grillo, che viene allontanato dal corteo al grido di vattene, buffone, e quindi insomma gli studenti non gradivano la presenza, poi spiegheranno anche perché. Ora entriamo un po' più nel merito di questa cosa e proviamo a vedere sul quotidiano Il Corriere della Sera un tema a latere della manifestazione, trattato da Pierluigi Battista. vice direttore del Corriere della Sera. Che cosa scrive Battista? La violenza politica è una bestia che si autoalimenta, che si dilata a dismisura quanto più riesce a occupare il centro della scena, quando riesce a imporsi con prepotenza nel cuore del discorso pubblico. Il ragionamento di Pierluigi Battista è alle scene di violenza che sono verificate a Piazza Navona, scrive ancora, a intensificare questo sentimento di perenne già visto e già sofferto contribuiscono certo le liturgie, i modi di essere, di parlare di una generazione che anche stavolta non finisce di abbeverarsi alla mitologia di un fantastico e primogenio 68 da far rivivere con appositi riti mimetici. Lo stesso però Pierluigi Battista fa delle considerazioni nei confronti dei media, della stampa, dei giornali, e scrive alla fine di un lungo ragionamento: sarà ancora il prevalere della violenza, molto dipenderà dalla saggezza di chi nel governo ha le redini dell'ordine pubblico e vorrà muoversi per isolare e rendere innocui i pochi violenti e non per regalare generosamente loro un piedistallo martirologico. Molto dipenderà anche da chi commenta e interpreta la protesta, se riuscirà a non lasciarsi imprigionare dai fantasmi del passato e da uno schema ricalcato sugli avvenimenti di oltre 3 decenni fa. La storia non è un destino già scritto in partenza e la lezione del passato non può essere un alibi, un automatismo mentale per non capire che non è tutto e sempre uguale a se stesso, malgrado le apparenze, come dire, insomma, non diamo per scontato che questo movimento si sfocerà, come negli anni 70, nelle violenze e anche violenze gravi. Io volevo anche segnalarvi sul Corriere della Sera un documento: no ai preti gay, l'omosessualità è deviazione anche se non praticata. E questo è un documento che viene dal Vaticano e che, tra altre cose, suscita, diciamo così, lo scritto, suscita le poche righe di Iena sulla stampa. Iena, alias Riccardo Barenghi, ormai lo sappiamo, autore appunto anche di un libro che raccoglie tutte le iene, diciamo, di questi anni. Beh, scrivere Iena sulla stampa: gli omosessuali non possono fare i preti, già inviate dal Vaticano migliaia di lettere di licenziamento. Beh, carina questa battuta, anche molto feroce. Quotidiano La Stampa pubblica, e questo è interessante, una lettera a Michael Bloomberg: 4 idee per il presidente che verrà. E quindi 4 idee, qualcuno dice, sono idee in realtà per Barack Obama. 1 milione contro la Gelmini, così il quotidiano La Repubblica apre la prima pagina sullo sciopero di ieri. E ci sono una serie di considerazioni. Intanto Giuseppe D'Avanzo racconta il giorno della verità dei Fratelli d'Italia. Chi se ne frega della solita conto? 1,5 milioni? 1,8 milioni? O fate voi. Roma è per intera paralizzata. È impossibile anche entrare in città. Decine di pullman sono spiaggiati come balene sul grande raccordo. E l'inizio del suo racconto, di una giornata di grande mobilitazione di Giuseppe D'Avanzo. D'Avanzo scrive, tra le altre cose: guardando la gente che sfila si comprende che Berlusconi ha fatto il suo primo errore. Ma è anche la Repubblica affida all'economista Tito Boeri una considerazione più di retroscena, più economica, più problematica. Ma il vero nemico è il precariato. Bisogna dare atto al ministro Gelmini di essere riuscita in 2 imprese molto difficili. Da una parte, con la sua legge sulla scuola, è riuscita a mettere d'accordo madri e figli, studenti e insegnanti, ricomponendo quella frattura intergenerazionale che da tempo blocca il nostro paese, scrive Tito Boeri sulla Repubblica. Bianca. Dall'altra parte, con la sua non legge sull'università, il suo subire passivamente le scelte fatte dal ministro dell'economia, è riuscita a rivitalizzare le rappresentanze studentesche. Abbiamo così oggi un attore in più che può scompaginare quell'equilibrio di veti incrociati e di ricatti reciproci che sin qui ha bloccato qualsiasi riforma universitaria in Italia. Ieri in piazza, scrive Tito Boeri, c'erano studenti medi e insegnanti nello stesso corteo, madri e figli unite nella lotta. L'obiettivo dichiarato era il ministro Gelmini e la sua legge, ma forse il vero nemico era un altro, il precariato. Le madri insegnanti precarie guardano con legittima preoccupazione ai tagli del personale che si concentreranno pressoché interamente su di loro, dato che gli insegnanti con contratti a tempo determinato non sono licenziabili. Ci saranno, come recita la legge, 87.000 posti in meno nell'arco di 3 anni, di cui 42.000 già nel 2009. Ecco, queste le cifre di Tito Boeri, per dire che, insomma, dietro la polemica e dietro anche gli scioperi, in realtà il vero problema è quello del precariato. La Repubblica però intervista anche, propone anche un'intervista a Massimo D'Alema. È un Massimo D'Alema, come dire, molto focoso in questa intervista, che lancia un messaggio al tempo stesso al governo, ma prima di tutto a Walter Veltroni, per dire, insomma, bisogna aprire una nuova fase del Partito Democratico. E vediamo le parole di Massimo D'Alema in questa intervista. La protesta di massa sulla scuola, la drammatica crisi economica che attanaglia famiglie e imprese. Ormai è evidente, l'idillio tra Berlusconi e l'Italia si sta incrinando, e la vicenda della legge elettorale europea, di cui apprezziamo il ritiro, non è il solo risultato della fermezza dell'opposizione, ma anche di difficoltà interne alla maggioranza. Di qui dobbiamo partire per rifondare, badate bene, usa questo termine, un nuovo centrosinistra che rappresenti agli occhi dei cittadini un'alternativa vera e credibile per il futuro governo del paese. Ammainate le bandiere della grande manifestazione, Massimo D'Alema scende in campo e suona la carica al Partito Democratico e a Veltroni. Scrive, dice ancora D'Alema, adesso, dice l'ex premier ed ex ministro degli esteri, bisogna lavorare per costruire intorno al PD una vasta coalizione democratica che ci permetta di alzare il nostro profilo riformista, di dialogare con tutte le opposizioni, di parlare ai ceti moderati che hanno votato Berlusconi e che ora capiscono la sua palese inadeguatezza. E qui c'è Massimo Giannini che gli dice, ma insomma, onorevole D'Alema, non è che state scommettendo un po' troppo su questa fine della luna di miele tra il cavaliere e gli italiani? Insomma, si capisce che Giannini pensa ai sondaggi che invece danno un Berlusconi al 72%, danno anche se meno sono i consensi del governo. E risponde D'Alema, nessuna illusione, ma non possiamo non vedere quello che sta succedendo. L'Italia attraversa una crisi senza precedenti che sarà di lungo periodo. Si è ormai dissolta l'idea che Berlusconi vivesse una sorta di luna di miele permanente con il paese. Stanno esplodendo i primi seri problemi nel rapporto tra il governo e i cittadini. Sta crollando come un castello di carte la straordinaria fiction costruita dal governo in questi mesi. Ci sono problemi enormi, il governo li ha gravemente sottovalutati e oggi dimostra di non avere la forza per affrontarli con la necessaria radicalità. Questo leggiamo sul il quotidiano della Repubblica, che vi dicevo unico a intervistare Massimo D'Alema. Ora, diversa naturalmente è l'opinione, l'orientamento e il taglio che viene dato, per esempio, dal giornale. Il giornale, intanto, come vi dicevo, mette ben in evidenza una notizia che è una notizia per tutti, perché i ragazzi cacciano Grillo, vattene buffone, questa volta il vaffa se l'è preso lui, il comico Beppe Grillo, sì, a Bologna per il suo spettacolo teatrale ha cercato di infilarsi nel corteo degli studenti, ma l'accoglienza è stata pessima, vattene buffone, pezzo di M, gli hanno urlato, il comico si è allontanato in tutta fretta, Grillo ha manie di protagonismo, non vogliamo prime donne qui, spiegano gli studenti. Ecco una delle motivazioni per cui Grillo è stato cacciato. In un altro giornale dice che Grillo avrebbe replicato, sì, hanno ragione, insomma, non hanno bisogno di leader dall'esterno. Ma è Mario Giordano, il direttore del giornale, che invece critica la politica proprio di Veltroni, di cui parlavamo poc'anzi con l'intervista ad Alema. Mario Giordano scrive: c'era una volta la legge truffa, adesso c'è il referendum truffa. Benvenuti nelle meraviglie del New Deal veltroniano, povero Walter. Una volta imitava Kennedy, ora si è ridotto a fare il verso di Di Pietro, e non riuscendo ancora a eguagliarlo nella raccolta di strafalcioni si accontenta di scimmiottarlo nella raccolta delle firme. Ma così facendo si tiene dietro il riluttante partito in una avventura che di fatto è già un film La Stangata. Per rendersi conto basta ascoltarli. L'obiettivo del referendum è ridurre i tagli, dice Veltroni. Bisogna rimediare ai tagli razionali, proclama l'inconsapevole Pina Ridens Pisierno, l'ombra delle politiche giovanili. E l'ex ministro Fioroni si lancia in espressioni barricadiere che fanno a pugni con il suo paccioso grigiore. Le famiglie toccheranno con mano gli effetti dei tagli. Dice: il raggiro democratico d'altra parte è l'inevitabile conclusione del caos organizzato con cui la sinistra ha mobilitato la piazza. L'inganno è evidente, gli italiani verranno invitati a firmare per evitare i tagli. Facile, no? Vuoi che la scuola di tuo figlio contribuisca al risanamento dei conti pubblici o preferisci che abbia fondi illimitati e magari palestre con spalliere placcate in oro? Quasi viene voglia di firmare anche a me, ma in realtà il referendum non c'entra nulla con la questione economica, che è contenuta non nel Gemini ma nella finanziaria di Tremonti, e sì, il ragionamento di Giordano è che la finanziaria non si può sottoporre a referendum. Questo comunque il giornale. Il quotidiano Libero invece, si occupa anche della scuola, e se ne occupa dal lato della dichiarazione di Maroni, che Maroni agli studenti ha detto: chi occupa paga. Il ministro dell'interno avverte: farò rispettare la legge anche a manifestanti e scioperanti. C'è un intervento, una cronaca, commento di Renato Farina sulla giornata di ieri, ma il Libero punta molto a un fatto: così Concita De Gregorio cacciò l'eretico su due piedi. E quindi continua questa, come dire, polemica a distanza tra Vittorio Feltri, direttore di Libero, e il direttore la direttrice dell'unità. In questo caso di che cosa si tratta? Una cosa posso dire: il modello veltroniano non mi piace, non mi sembra un modello forte, non ha consistenza, è musica leggera per ceti medi. Condivido tutto delle cose scritte sull'unità da Travaglio e Colombo su Veltroni. Terribile, chi l'ha detta? Chi si è permesso a sinistra di esprimere un pensiero del genere? Musica leggera per ceti medi, Veltroni. Ma scherziamo? Yes, we can. No, we can't. Con questa frase atroce, proferita in un'intervista rilasciata a Pierluigi Diaco, lo scrittore Fulvio Abbate si è giocato la sua collaborazione all'unità. I care un cazzo, scrive Massimiliano Parente. Mercoledì scorso, infatti, molti lettori di Abbate, incluso il sottoscritto, si sono chiesti che fine ha fatto la rubrica Sagome, che dura da anni, e si saranno tranquillizzati ipotizzando un banale slittamento, come spesso succede. Eppure, invece no, dice Libero, perché ci sarebbe stato un vero e proprio licenziamento dello scrittore epurato Fulvio Abbate, nato a Palermo il 20 dicembre del 1956 collaboratore del vedremo cosa replica Concita De Gregorio, ma questo sicuramente. E poi abbiamo un servizio di Antonio Socci: Moro ucciso da sconosciuti, dalla lapide sono sparite le BR. Sul monumento voluto poco dopo il delitto dal Comune di Roma non è scritto che l'uomo politico era democristiano e che furono i terroristi di sinistra ad assassinarlo. Questo dice il servizio Revisionismi Rossi, Socci, sul quotidiano Libero. È un'ondata, questo è il titolo del quotidiano Il Riformista, direttore Antonio Polito. Sì, è Antonio Polito, che probabilmente qui l'editoriale non è firmato, quindi può essere accreditato al direttore, firma un editoriale che, come dire, ricalca in parte le posizioni di Massimo D'Alema nell'intervista al quotidiano La Repubblica. Vediamo cosa scrive il Riformista. La scuola è il primo vero intoppo della gioiosa macchina da guerra del governo. c'è poco da dire. Quando si riempiono così le piazze, e così tante piazze, seppure sotto l'egida sindacale, vuol dire che il paese non ha accolto il decreto Gelmini con l'entusiasmo con cui accolse il decreto per l'immondizia a Napoli o quello per salvare l'Italia. Un po' era inevitabile, con la scuola si comincia a toccare la carne viva della spesa pubblica, un po' però era evitabile. Lo stato d'animo del governo è stato ben espresso ieri da Ignazio La Russa. Per la prima volta c'è stata una mancanza di informazione. Si poteva anche fare il decreto, ma al termine di un percorso. È un eufemismo per dire ciò che molti ministri pensano. Non staremo prendendo un po' troppi schiaffi, un po' troppo a schiaffi il paese. Dall'immagine inclusiva e paterna che Berlusconi ha dato a Napoli si è passati troppo rapidamente alla faccia feroce di un premier che minaccia l'invio della polizia. Il decreto Gelmini non è certo l'articolo 18, eppure, scrive il Riformista, è diventato rapidamente impopolare per la carica simbolica che si portava dietro. Ragazzi spaventati di un futuro in cui la loro laurea non varrà nulla. Il governo ha portato a casa il decreto, ma ha rotto l'idilio. Ecco l'altro concetto già espresso da Massimo D'Alema. L'opposizione può vantare un successo tattico, è uscita dall'angolo, ma la partita strategica resta immutata. Anche questo ricalca le parole dette da D'Alema. E sul Riformista interessante leggere Tariq Ramadan. Ecco che cosa dirò al Papa il 6 novembre. Dal 4 al 6 novembre si terrà a Roma il primo incontro del Forum Cattolico Islamico, nato dalla lettera aperta a Common World indirizzata al Papa da 138 esponenti musulmani. I partecipanti saranno ricevuti da Benedetto XVI, tra di loro Tariq Ramadan, che scrive questo articolo per il Riformista. Dopo aver provocato un'ondata di shock, le parole di Papa Benedetto XVI pronunciate a Ratisbona 2 anni fa avranno avuto senza dubbio conseguenze più positive che negative nel lungo termine. Al di là della polemica, questa conferenza ha provocato una presa di coscienza generale sulla natura delle rispettive responsabilità sia dei cristiani che dei musulmani in Occidente. Poco importa se si tratta di un gesto maldestro, di una presa di posizione, di principio da parte del più alto rappresentante della Chiesa Cattolica, scrive Tariq Ramadan. Ciò che conta ormai è determinare i settori nei quali è necessario un dibattito di fondo tra cattolicesimo e Islam. I riferimenti alla jihad e alla violenza dell'Islam nel discorso del Papa hanno scioccato i musulmani, sebbene si trattasse di una citazione dell'imperatore bizantino Manuele II, il paleologo. Riteniamo dunque sia necessario aprire un dibattito sui fondamenti teologici rispettivi e il substrato comune delle due religioni. Questo scrive Tariq Ramadan sul Riformista, anticipando un po' quello che verrà detto al Papa nell'incontro, ci sarà tra il 4 e il 6 novembre, tra due religioni così importanti. E il Sole 24 Ore, naturalmente concentra come sempre la sua attenzione sulla crisi, grandi banche, il tesoro sceglie la strada dei bond, piano su confidi, ecoincentivi e infrastrutture. Potrebbe essere varato oggi al Consiglio dei Ministri un nuovo intervento per le banche, una ricapitalizzazione alla francese. Il tesoro sottoscriverà obbligazioni subordinate perpetue o nuovi strumenti ibridi delle banche per ricapitalizzare in maniera leggera, cioè senza ricorrere a strumenti azionari intrusivi e dilutivi del capitale. È la linea che è stata presa dal governo, a differenza dei governi francesi, inglesi e anche americani. Il governo italiano ha deciso di non entrare, come dire, con un azionariato nelle banche. Anche Mediobanca e le banche di credito cooperativo sono in attesa della maxi operazione sul fronte dell'economia reale. Dopo il vertice tra il governo, l'ABI, Confindustria e le altre associazioni datoriali, si punta a 3 grandi interventi, garanzie per le pubbliche e medie imprese e i confidi, ecoincentivi, sblocco di 16 miliardi per le infrastrutture, in arrivo anche un prestito di 5.000 euro per i nuovi nati nelle famiglie numerose. Mentre rimane come dire, una sorta di differenza all'interno del governo sul come intervenire, se intervenire sulle famiglie, che tipo di strumento utilizzare. E Francesco Verderami sul Corriere della Sera ci spiega questa cosa, quando dice Berlusconi l'aveva promesso ai rappresentanti dell'industriale e ai leader sindacali, qualcosa in finanziaria andrà cambiato, perché la situazione è cambiata, ma Tremonti non intende cedere le pressioni. E la nota con cui ieri sera il portavoce di Palazzo Chigi ha smentito qualsiasi modifica della finanziaria rivela le tensioni e l'out-out posto dal ministro dell'economia. Insomma, secondo Francesco Verderami, se nel governo sia già iniziata la stagione degli ultimatum è tutta da vedere. Il paradosso è che a fronte di una stabilità politica senza precedenti è la crisi finanziaria a provocare fibrillazioni nell'esecutivo e nella maggioranza. Ogni dossier deve fare i conti con l'emergenza economica che ingigantisce i problemi per la mancanza di fondi. Questa mi sembra sia ormai la linea stabilita. E a proposito, però, sempre tornando al Sole 24 Ore, il Sole ha affidato a Innocenzo Cipolletta una riflessione: l'intervento dello Stato e la corsa agli aiuti. C'è una sostanziale differenza, scrive Cipolletta, tra il sostegno pubblico promesso al sistema finanziario e la generale corsa alla richiesta e all'offerta di aiuti di Stato alle imprese. Nel caso della finanza si tratta di dare garanzia al sistema bancario, ossia un'infrastruttura economica che ha perso la fiducia degli operatori, affinché possa assicurare il normale svolgimento delle operazioni di credito, senza il quale c'è il rischio di trasformare un'attesa recessione in una vera e propria depressione. E ecco, dice, questa è una cosa, altra cosa invece sono gli aiuti alle imprese. Questo dice il Sole 24 Ore, Innocenzo Cipolletta sul Sole 24 Ore. E Libero Mercato, occhio Silvio che ci sorpassano, aiuti all'economia in crisi. Il manifesto vi dicevo, Aula Magna, il manifesto a tutto campo, a tutta pagina, una foto che è vera apertura del giornale, la scuola si ferma, siamo un milione, e esalta di molto la manifestazione, così come l'unità, l'onda dappertutto. Eravamo in tanti, un milione a Roma, grandi cortei in tutte le città, da sud a nord, dura reazione del governo, Maroni minaccia, chi occupa sarà denunciato. Io volevo solo ricordarvi, tra le altre cose, che i due settimanali in edicola, l'Espresso, uno sulla scuola, non è un paese per giovani, viene preso il titolo, no, di un film recente, dalla scuola all'università dilaga la protesta di una generazione che non si fida dei partiti, che non vuole una vita precaria e chiede il diritto a un futuro, viaggio nell'onda studentesca. Mentre Panorama titola in copertina, inchiesta, così bruciano i soldi della ricerca. Aspetti della verità, fisiologia del cavallo atleta, bizzarrie come queste incassano fondi per decine di migliaia di euro, agli studi su cancro, staminale e ambiente invece pochi quattrini. Sulla spartizione pesa il potere dei baroni. Questo il settimanale Panorama. Approfondisce e definisce i baroni responsabili anche del collasso economico dell'università, come mostra l'esempio di Siena. E con questa segnalazione dal settimanale Panorama io ho concluso il mio tempo, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domattina.